14. Poche ore dopo erano al ballo a casa del ricco musicista Spuela. Trenmore e Stenio tornarono nella cupola e dalle profondità di quella rotonda vuota e sonora si guardarono intorno nelle grandi sale piene di movimento e di rumore. Le danze vorticavano in cerchi capricciosi sotto le candele che si affievolivano, i fiori morivano, nell'aria rarefatta e stanca, i suoni dell'orchestra si spegnevano sotto la volta di marmo e nel vapore caldo del ballo, figure pallide, tristi e belle nei loro abiti festivi, passavano e ripassavano. Ma al di sopra di questo quadro ricco e vasto, al di sopra di questi toni luminosi ammorbiditi dalla vaghezza della profondità e dalla pesantezza dell'atmosfera, al di sopra delle strane maschere, degli abiti scintillanti, delle fresche quadrighe e dei gruppi di donne giovani e ridenti, al di sopra del movimento e del rumore, al di sopra di tutto, si ergeva la grande figura isolata di Lelia. Appoggiata ad un antico cippo di bronzo sui gradini dell'anfiteatro, anch'ella contemplava il ballo. Aveva anch'ella indossato un costume caratteristico, ma l'aveva scelto nobile e cupo come lei. Aveva l'abito austero, eppure ricercato. Il pallore, la gravità, lo sguardo profondo di una giovane poeta d'altri tempi, quando i tempi erano poetici e la poesia non era accostata alla folla. I capelli neri di Lelia, gettati all'indietro, lasciavano scoperta quella fronte dove il dito di Dio sembrava aver impresso il sigillo di una misteriosa sventura e che gli sguardi del giovane Stenio interrogavano incessantemente con l'ansia di un pilota attento al minimo soffio di vento e all'aspetto delle minime nuvole su un cielo puro. Il cappotto di Lelia era meno nero, meno velato dei suoi grandi occhi coronati da sopracciglia mobili. Il candore opaco del viso e del collo si perdeva nel biancore del suo vasto borsalino e l'alito freddo del suo seno impenetrabile non sollevava nemmeno il raso nero del suo saio e le tre file della sua catena d'oro. «Guardate!» disse Trenmore con un sentimento di pacata ammirazione, mentre il cuore del giovane si precipitava violentemente fuori di sé. Guardate quella grande statua greca sotto quegli abiti dell'Italia, devota e appassionata, quella bellezza antica di cui la statuaria ha perso lo stampo, con l'espressione di profonda fantasticheria dei secoli filosofici. Queste forme e questi tratti così ricchi, questo lusso di organizzazione esterna di cui un sole omerico avrebbe potuto creare i tipi ora dimenticati. Vi dico, questa bellezza fisica che basterebbe a mostrare una grande potenza e che Dio si è compiaciuto di rivestire con tutta la potenza intellettuale del nostro tempo. Possiamo immaginare qualcosa di più completo di Lelia, vestita, posata e sognante di questa? È il marmo intatto di Galatea con lo sguardo celeste di Tasso, con il sorriso cupo della Alighieri e l'atteggiamento facile e cavalleresco dei giovani eroi di Shakespeare. È Romeo, l'amante poetico, e Amleto, il visionario pallido e ascetico. È Giulietta, la Giulietta mezza morta che nasconde nel suo petto il veleno e il ricordo di un amore infranto. Su questo volto, la cui espressione riassume tutto, si possono iscrivere i più grandi nomi della storia del teatro e della poesia a forza di concentrare tutto. Il giovane Raffaello deve essere caduto in questa contemplazione statica quando Dio gli ha fatto apparire un ideale di vergine. La morente Corinne doveva essere immersa in questa tetra attenzione quando ascoltò i suoi ultimi versi declamati in Campidoglio da una giovane ragazza. Il muto e misterioso Paggio di Lara si era ritirato in questo sdegnoso isolamento dalla folla. Sì, Lelia unisce tutte queste idealità perché unisce il genio di tutti i poeti, la grandezza di tutti gli eroismi. Potete dare tutti questi nomi a Lelia. Il più grande, il più armonioso di tutti davanti a Dio sarà comunque quello di Lelia. Lelia, la cui fronte luminosa e pura, il cui petto vasto e flessuoso contiene tutti i grandi pensieri, tutti i sentimenti generosi, la religione, l'entusiasmo, lo stoicismo, la pietà, la perseveranza, il dolore, La carità, il perdono, il candore, l'audacia, il disprezzo della vita, l'intelligenza, l'attività, la speranza, la pazienza, tutto, tutto, fino alle innocenti debolezze, fino alla sublime leggerezza della donna, fino alla mobile spensieratezza che è forse il suo più dolce privilegio e la sua più potente seduzione. Tutto, ma non l'amore, ahimè, disse Stenio. È vero, non hai nominato l'amore. Trenmore, tu che conosci Lelia, non hai nominato l'amore. Se è così, hai mentito. Lelia non è un essere completo, è un sogno, come quello che l'uomo può creare, grazioso, sublime, ma in cui manca sempre qualcosa di sconosciuto, qualcosa che non ha nome e che una nuvola ci vela sempre, qualcosa che è al di là dei cieli, qualcosa a cui tendiamo continuamente senza mai indovinarlo. Qualcosa di vero, perfetto e immutabile. Forse Dio, forse è Dio che chiama. Ebbene, alla mente umana manca la rivelazione di questo. Per sostituirlo, Dio gli ha dato l'amore, una debole emanazione del fuoco del cielo, l'anima dell'universo, percepibile dall'uomo. Questa scintilla divina, questo riflesso dell'Altissimo senza il quale la creazione più bella non ha valore. Senza il quale la bellezza è solo un'immagine priva di animazione, l'amore. Lelia non ce l'ha. Che cos'è dunque Lelia? Un'ombra, un sogno, al massimo un'idea. Andiamo, dove non c'è amore, non c'è donna. E pensi anche tu, gli disse Trenmore senza rispondere a quella che Stenio sperava fosse una domanda, pensi anche tu che dove non c'è amore non c'è uomo? Ci credo con tutta l'anima, gridò il bambino. Allora sono morto anch'io, disse Trenmore sorridendo, perché non ho amore per Lelia. E se lei non lo ispira, quale altro potrebbe farlo? Beh, caro, spero che tu ti sbagli e che l'amore sia come le altre passioni. Credo che dove finiscono loro, inizi l'uomo. In quel momento Lelia scese le scale. E si avvicinò a loro. La triste maestosità che la circondava come un'aureola la isolò quasi sempre dal mondo. Era una donna che non si concedeva mai in pubblico. Si nascondeva nella sua stanza privata per ridere della vita, ma la attraversava con un'odiosa sfida e si mostrava in un aspetto rigido per tenere il più possibile lontano il contatto con la società. Tuttavia amava le feste e gli incontri pubblici. Era venuta a cercare uno spettacolo, era arrivata a sognare sola in mezzo alla folla. La folla doveva abituarsi a vederla aleggiare su di sé e trarre impressioni dal suo seno senza mai comunicare nulla di suo. Non c'è stato alcuno scambio tra Lelia e la folla. Se Lelia cedeva a qualche silenziosa simpatia, si rifiutava di ispirarla, non ne aveva bisogno. La folla non capiva questo mistero, ma era affascinata. E pur cercando di sminuire questo destino sconosciuto, la cui indipendenza li offendeva, si aprivano a lei con un rispetto istintivo che era simile al timore. Il povero giovane poeta di cui era innamorata capì un po' meglio le cause del suo potere, anche se non voleva ancora ammetterle a se stesso. A volte era così vicino alla triste verità che cercava e respingeva. Tanto da provare una sorta di orrore per Lelia. Gli sembrò allora che lei fosse il suo flagello, il suo demone, il suo genio del male, il nemico più pericoloso che avesse al mondo. Vedendola venire da lui sola e pensierosa, provò una sorta di odio per questo essere che non aveva alcun legame apparente con la natura, senza pensare che avrebbe sofferto molto di più lo sciocco se l'avesse vista giocare e sorridere. Sei qui? Disse in tono duro e amaro, come un cadavere che ha aperto la sua bara ed è venuto a camminare tra i vivi? Vedi, la gente si allontana da te, ha paura di toccare il tuo sudario, non osa guardarti in faccia. Il silenzio della paura aleggia intorno a te come un uccello notturno. La tua mano è fredda come il marmo da cui sei emersa. Lelia rispose solo con uno sguardo strano e un sorriso freddo, poi. Dopo un attimo di silenzio, ho avuto un'idea molto diversa poco fa. Dice: Pensavo che foste tutti morti e che io, l'unica viva, vi stessi cercando. Pensavo che ci fosse qualcosa di stranamente cupo nell'invenzione di queste mascherate. Non è forse molto triste resuscitare secoli che non ci sono più e costringerli a intrattenere il secolo attuale? Questi costumi dei tempi passati, che rappresentano generazioni estinte, non sono forse una lezione spaventosa per ricordarci la brevità dei giorni umani nel bel mezzo dell'ebbrezza di una festa? Dove sono i cervelli appassionati che ardevano sotto quelle sbarre e quei turbanti? Dove sono finiti i cuori giovani e vivaci che palpitavano sotto quei copricapi di seta, sotto quei corpetti ricamati d'oro e di perle? E dove sono le donne orgogliose e belle che si drappeggiavano in questi pesanti tessuti che coprivano i loro ricchi capelli con questi gioielli gotici? Ahimè, dove sono questi re di un giorno che brillavano come noi ora brilliamo? Passavano senza pensare alle generazioni che li avevano preceduti, senza pensare a quelle che li avrebbero seguiti, senza pensare a se stessi, che si coprivano di oro e profumi, che si circondavano di lusso e melodie, aspettando il freddo della bara e l'oblio della tomba. Si riposano dalla vita, disse Trenor, felici coloro che dormono nella pace del Signore. Lo spirito di un uomo deve essere molto povero, disse Lelia, e i suoi piaceri molto vuoti. I piaceri semplici e facili devono presto esaurirsi per lui, poiché nel fondo della sua gioia e del suo sfarzo trova sempre un'orribile impressione di tristezza e di terrore. Ecco, un uomo ricco e gioioso, un uomo felice della terra che per stordirsi e dimenticare che i suoi giorni sono contati, non immagina niente di meglio che riesumare le spoglie del passato, coprire i suoi ospiti con la livrea della morte e far danzare gli spettri dei suoi antenati nel suo palazzo. La tua anima è triste, Lelia, disse Trenmore. Sembra che tu sia sola qui e temi di morire a tua volta. 15. Questo giovane merita più compassione, Lelia. Pensavo che tu avessi solo le grazie e le adorabili qualità di una donna, ma avresti anche la feroce ingratitudine e l'impudente vanità? No, preferirei dubitare dell'esistenza di Dio piuttosto che della bontà del tuo cuore, Lelia. Quindi dimmi. Cosa vuoi fare di quest'anima di poeta che si è donata a te e che tu hai accolto, forse incautamente? Non puoi più allontanarla senza che si rompa. E attenzione, Lelia, Dio ti chiederà conto un giorno, perché quest'anima viene da lui e a lui deve tornare. Se lo sguardo di Dio si abbassa abbastanza vicino a noi per apprezzare qualche differenza tra le creature delle sue mani, sicuramente il giovane Stenio deve essere uno dei suoi figli preferiti. Non ha forse posto in lui un riflesso della bellezza degli angeli? Cosa c'è di più puro e dolce di questo bambino? La sua palpebra morbida, che si abbassa ogni momento per velare uno sguardo pudico, non sembra invocare i casti baci di quelle vergini alate che vediamo nei nostri sogni? Non ho visto un volto di calma più angelica o un azzurro nel cielo più bello che fosse più limpido e celestiale dell'azzurro dei suoi occhi. Non ho mai sentito una voce femminile più armoniosa e dolce della sua. Le parole che pronuncia sono come le note, deboli e vellutate, che il vento dà alle corde dell'arpa, e poi la sua andatura lenta, i suoi atteggiamenti disinvolti e tristi, le sue mani bianche e fini, il suo corpo fragile e flessuoso, i suoi capelli di un tono così tenue e di una morbidezza setosa, la sua carnagione mutevole come il cielo d'autunno. Il cremisi acceso che un vostro sguardo diffonde sulle sue guance, il pallore bluastro che una vostra parola imprime sulle sue labbra, tutto questo è un poeta, un giovane, vergine, un'anima che Dio ha mandato a soffrire qui sulla terra per metterla alla prova prima di farne un angelo. E se consegnate questa giovane anima al soffio delle passioni corrosive, se la spegnete sotto il ghiaccio della disperazione, se la abbandonate sul fondo dell'abisso, come farà a ritrovare la strada del cielo? Oh donna, attenzione a ciò che stai per fare. Non schiacciare questo fragile fanciullo sotto il peso della tua terribile ragione. Salvalo dal vento e dal sole, dal giorno, dal freddo e dai fulmini e da tutto ciò che ci inaridisce, ci rovescia, ci secca e ci uccide. Donna, aiutalo a camminare, coprilo con il tuo mantello, sii la sua guida sul bordo della scogliera. Non puoi essere sua amica, sua sorella o sua madre. So tutto quello che mi hai detto, ti capisco, mi congratulo con te, ma dal momento che sei così felice, per quanto tu possa esserlo, non è più di te che mi occupo, è lui che soffre e che compatisco. Forza, donna, tu che conosci così bene l'uomo, non hai un rimedio per i suoi mali, non puoi dare agli altri un po' della conoscenza che Dio ti ha dato. È in te fare il male e non essere in grado di fare il bene. Bene, allora, se è così, dobbiamo liberarci di Stenio o scappare da lui. 16. Sbarazzati di Stenio o scappa da lui. Oh, non ancora, sei così freddo, il tuo cuore è così vecchio, amico, che parli di fuggire da Stenio come se si trattasse di lasciare questa città per un'altra, questi uomini di oggi per quelli di domani, come se si trattasse di te, Trenmore, che lasci me, Lelia. Lo so, hai toccato la meta, sei scampato al naufragio, sei in porto, nessun affetto in te sale al livello della passione, niente è necessario per te, nessuno può fare o rompere la tua felicità, tu stesso ne sei l'artefice e il custode. Anch'io, Trenmore, mi congratulo con te, ma non ti capisco, posso solo intuirti. Ammiro il lavoro regolare e solido che hai fatto, ma quest'opera della tua ragione è una fortezza. E io, una donna, un artista, ho bisogno di un palazzo. Non sarò felice lì, ma almeno non morirò lì, tra le tue mura di ghiaccio e pietra. Non avrò un giorno di vita, no, non ancora, no. Dio non lo vuole. Si può prevedere la realizzazione dei suoi progetti. Se mi è dato di arrivare dove sei tu, almeno voglio arrivarci matura, per la saggezza e sicura di non guardarmi indietro con dolore. Ah, ti sento da qui. Donna debole e miserabile, dici. Temi di ottenere ciò che spesso chiedi. Ti ho visto aspirare al trionfo che respingi. Ebbene, continua. Sono debole. Sono una vigliacca, ma non sono né ingrata né vanitosa. Non ho questi vizi. No, amico mio, non voglio spezzare il cuore di un uomo, spegnere l'anima del poeta. Sì, certo, che amo Stenio. 17. Tu ami Stenio? Donna, stai mentendo. Pensa a quello che siamo, tu, lui, io. Tu ami Stenio. Questo non è e non può essere. Pensa ai secoli che ti separano da lui. Tu, un fiore appassito, battuto dai venti, spezzato. Tu, una barca sballottata su tutti i mari, arenata su tutte le rive, oseresti tentare un nuovo viaggio? Ah, non ci pensare, Lelia. Di cosa abbiamo bisogno ora? Di persone come noi. Il resto della tomba. Hai vissuto. Lascia che gli altri vivano a loro volta. Non buttarti, ombra triste e fugace, nel cammino di chi non ha finito il suo compito e non ha perso la speranza. Lelia, Lelia, la bara ti chiama. Non hai sofferto abbastanza, povero destino. Stenditi nel tuo sudario, dormi finalmente nel tuo silenzio, anima stanca che Dio non condanna più al lavoro e al dolore. È vero che sei meno avanzata di me. Hai ancora qualche ricordo dei tempi passati. A volte lotti ancora contro il nemico dell'uomo, contro la speranza, ma credimi, sorella, sei solo a pochi passi dalla meta, credimi. Siamo a pochi passi dalla beatitudine eterna, sei molto più vicina a me che a Stenio. E poi, per venire da me, bisogna andare avanti, invece per andare da lui bisogna andare indietro e questo non è possibile. Si può invecchiare, ma nessuno diventa più giovane. Ancora una volta, lascia che il fanciullo cresca e viva, non soffocare il fiore del suo germe, non gettare il tuo alido gelido sulle sue belle giornate di sole primavera, non sperare di dare la vita a Lelia. La vita non è più in te, ne hai solo il rimpianto. Presto, come me, ne avrai solo il ricordo.